Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo proprio di economia, parliamo dell'Italia, di un'Italia che non cresce. Questo è il titolo del libro di Alessandro Rosina. Buonasera Alessandro Rosina. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Alessandro Rosina, professore di demografia e statistica sociale presso la Facoltà di Economia della Cattolica, dove dirige anche il laboratorio di statistica applicata alle decisioni economico-aziendali. Il libro, edito da La Terza, parla degli alibi di un paese immobile. Ecco, Alessandro Rosina, che appunto dirige il laboratorio di statistica applicata alle decisioni, può dirci quali sono le decisioni che mancano per far muovere l'Italia? Sì, le decisioni che mancano, insomma, un po' la convinzione da cui parte il libro, l'asse portante è che uno, non sia scontato il declino, che l'Italia sia un paese con grandi risorse e potenzialità che finora non sono state adeguatamente valorizzate. E quali sono queste importanti risorse? Ecco, le risorse principali sono le persone, sono gli abitanti del paese, e le decisioni che sono mancate è la politica che mettesse le persone nelle condizioni di esprimere al meglio le capacità che hanno, le loro competenze e la loro voglia di far di più e meglio e di migliorare le proprie condizioni di vita. Ecco, un paese in cui c'è una politica che investe sulla promozione delle capacità e delle competenze e che aiuta le persone a mettere in campo decisioni virtuose e positive per sé e per la società, diventa un paese non solo che cresce dal punto di vista economico, ma che produce benessere in senso più ampio, più generale, e che migliora il proprio futuro. Questo noi non l'abbiamo fatto. Quindi dare concretezza un po' al fatto che nell'insieme, guardando anche alla crisi, la crisi può essere anche un'opportunità. Quelli che spesso vediamo come problemi possono essere visti in un altro senso, con il classico bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, adesso possono essere visti come possibilità appunto di superare, di avviare un nuovo processo di crescita. Lei parla di alibi, soprattutto di tre alibi, io li vedrei magari uno per uno, di alibi che sono cose che esistono realmente ma che vengono prese in maniera sbagliata. Questo è un po' il senso. Il primo alibi è quello del declino demografico, un dato reale. L'Italia è un paese in cui predominano ormai gli anziani sui giovani, ma ecco, come può essere valorizzato questo elemento? Sì, ecco, questo perché è un alibi. Allora, da un lato c'è una condizione di fatto. Noi siamo un paese che, come conseguenza della denatalità molto accentuata, ha ridotto fortemente il peso demografico delle nuove generazioni. E allora cosa si sarebbe dovuto fare? Si sarebbe dovuto investire qualitativamente sulla loro formazione, sulle loro opportunità, sui loro spazi e la possibilità quindi di mettersi in gioco, quindi cogliere il fatto di averne di meno per potenziarne formazione e possibilità di essere attivi e partecipativi con strumenti adeguati. Cosa che ad esempio in Germania è stata fatta. La Germania è un paese che ha una struttura demografica simile alla nostra, che ha avuto, a differenza della Francia invece che ha una fecondità elevata, ha avuto una forte riduzione quantitativa di giovani, ma che ha compensato questa riduzione quantitativa con una politica di forte formazione e promozione delle opportunità dei giovani poi nel mercato del lavoro e nella società. Tant'è che adesso, pur in crisi, pur in periodo di crisi, la Germania ha un tasso di disoccupazione giovanile addirittura più basso rispetto al periodo pre-crisi e senz'altro dai più bassi in Europa. Ecco, noi la Germania l'ha fatto, noi non l'abbiamo fatto, e questo poteva essere quindi un momento in cui l'investimento forte sulle nuove generazioni, soprattutto qualitativo, poteva in qualche modo fare la differenza e contribuire quindi a un paese che, rimettendo in campo fortemente le nuove generazioni con le loro potenzialità, la loro voglia di innovazione, le loro competenze direttamente legate poi alle sfide di questo secolo e quindi in grado poi di ridare competitività al paese, potessero prodursi. Non solo non l'abbiamo fatto, ma noi i giovani adesso li sprechiamo di più, tant'è che abbiamo la percentuale più alta di NEET, cioè di giovani che non studiano e non lavorano, e questo è un paradosso in cui siamo precipitati, quindi meno giovani da un lato e più sprecati e meno capacità di valorizzare il capitale umano. I giovani vittime un po' di loro stessi, ma soprattutto delle politiche che sono mancate per valorizzare questi giovani, e a questo si ricollega anche il secondo alibi che lei appunto spiega in questo libro, che è la logica familistica, la logica di badare più ai propri interessi che non a quelli generali, in una fiducia forse che l'interesse privato faccia comunque il bene collettivo. L'Italia è un po' chiusa nel difendere i propri privilegi, professor Rosina. Sì, c'è questo che è senz'altro vero, però noi diamo molta attenzione agli aspetti più deteriori del familismo, che sono anche accentuati da un sistema di welfare inefficiente e che poi non funziona, che abbandona le famiglie a se stesse. E quindi che cosa succede? Succede che le famiglie, non avendo dei servizi di qualità adeguati e delle risposte alle loro domande di aiuto o anche di promozione, di miglioramento delle proprie condizioni, si chiudono in se stesse e aumenta la sfiducia nel pubblico, proprio perché poi il pubblico non funziona, non dà quelle risposte che servirebbero alle famiglie per potersi difendere e migliorare le proprie condizioni. Quindi c'è da un lato una propensione antropologica, culturale delle famiglie italiane a cercare comunque di far da sé e di avere una capacità anche di attivare un welfare informale molto forte che negli altri paesi non c'è, ma dall'altra questo rischia di diventare un alibi per lo Stato, per le politiche pubbliche, che pensando che le famiglie possano cavarsene da sole disincentivano, disinvestono, comunque non investono adeguatamente in servizi o in promozione come avviene negli altri paesi. Basta guardare la percentuale di asili nido, la copertura degli asili nido, ma anche le politiche fiscali a favore delle famiglie, tutto quello ad esempio che si fa in Francia e che funziona e che aiuta le famiglie a fare delle scelte positive in Italia manca. E noi poi così rischiamo di accentuare l'effetto deteriore del familismo anziché di favorire l'aspetto positivo, e l'aspetto positivo è la ricchezza e la forza delle reti di solidarietà intergenerazionale familiare, che se non sono aiutate e alimentate e hanno un appoggio adeguato rischiano appunto di collassare e quindi di schiacciare le famiglie a ribasso, quindi rinunciare o a avere figli o a non avere una doppia occupazione. Ricordiamo che siamo un paese che è riuscito a combinare bassa occupazione femminile, bassa fecondità e tra i più alti rischi di povertà delle famiglie con figli. Non ci siamo fatti mancare nulla in fondo. Direi di no. In questo senso, ecco, se possiamo dire che poi il welfare familiare è un po' quello che evita che il disagio sociale che comunque esiste con questa disoccupazione molto alta da parte dei giovani si trasformi in protesta sociale, si trasformi in qualcosa di difficilmente controllabile. Ecco, il terzo alibi a cui di cui lei parla in questo libro è quello della popolazione straniera, che continua ad essere vista come un problema e più che come un'opportunità. Sì, l'altro aspetto è importante questo: noi siamo un paese che invecchia, che ha ridotto fortemente la base della piramide demografica e che quindi ha bisogno, se pensa di crescere, di innesti dall'esterno, soprattutto in alcuni settori, ma anche quelli per i servizi alle famiglie. Teniamo presente, se non ci fossero le badanti, le colf, eccetera, difficilmente ci sarebbe la possibilità di conciliare lavoro e famiglia per molte coppie italiane, quindi molte scelte verrebbero fatte al ribasso, molte aziende farebbero fatica a sopravvivere. C'è poi l'imprenditoria degli immigrati, degli stranieri, che comunque aumenta anche la possibilità della crescita del paese. Teniamo presente che la percentuale di popolazione straniera in Italia è attorno al 7%, ma il contributo al prodotto interno lordo è attorno al 10% della popolazione straniera. Quindi noi dobbiamo uscire soprattutto a livello culturale da una logica di gestione dell'immigrazione come se fosse un'emergenza, come se fosse una cosa che adesso c'è ma che possiamo liberarci in qualsiasi momento. È impossibile, dobbiamo pensarla come qualcosa di strutturato, di parte integrante della nostra società, che comunque è destinata a crescere. Le previsioni dell'Istat, per tutta una serie di motivi che adesso non abbiamo qui il tempo di sviluppare, prevede che da qui al 2025, quindi domani o dopodomani, la popolazione straniera arriverà dai 4,4 milioni agli 8 milioni, attuali 4,4 a 8 milioni, quindi comunque è destinata a crescere. Quindi la vera sfida non è quella di difendersi dall'immigrazione, ma di farla diventare parte integrante di un nostro modello e processo di sviluppo, quindi farla diventare funzionante e farla diventare integrata e farla diventare quindi un elemento in più positivo che ci aiuta a crescere meglio, investendo molto anche sulla qualità. E quindi dovremo anche non solo avere politiche che frenano le entrate, ma che siano in grado anche di filtrare o comunque promuovere un ingresso di qualità qualità e poi la possibilità di migliorare la qualità e la presenza dell'integrazione anche nel nostro paese per chi è già qui. Ecco, lei conclude il suo libro L'Italia che non cresce con un invito a tener conto del cambiamento, ma soprattutto a guidare il cambiamento, a non far sì che il futuro sia non si sa che cosa, ma il futuro sia quello che noi vogliamo costruire. Indubbiamente l'Italia fatica a cambiare anche da un punto di vista di regole, di amministrazione, di politiche. Le riforme più forti, le riforme più sensibili di cui l'Italia avrebbe bisogno in questa fase. Qualcosa si è fatto sul fronte della previdenza, qualcosa si è fatto, almeno si è annunciato sul fronte della spesa pubblica, però siamo sempre ai primi passi, non c'è abbastanza coraggio, professor Rosina. Sì, bisognerebbe avere il coraggio di cambiare fortemente questo paese. Questo è un paese da troppo tempo, è bloccato, è immobile dal punto di vista sia economico, perché la crescita economica è rallentata molto già prima della crisi stessa, dal punto di vista sociale si è fermato l'ascensore sociale e quindi è un paese che poi fa fatica a fare delle riforme, non le fa o le fa in maniera incompiuta e quindi avrebbe bisogno proprio di ripensare un proprio modello di sviluppo che rimetta al centro le persone, che promuova la voglia di fare, di mettersi in gioco, le capacità e le competenze in tutte le fasi della vita e quindi che sia a partire dall'infanzia, sia nella periodo di formazione, sia nell'ingresso del mercato del lavoro, ma sempre di più, perché è un paese in cui la longevità pone nuove sfide anche in età tardo adulta, dei giovani anziani eccetera, consideri una risorsa la possibilità di vivere a lungo e la possibilità di vivere con piacere quella fase della vita. Noi rischiamo di fare poi, nell'incapacità di fare delle riforme vere, di porre dei vincoli, come ad esempio quello di forzare le persone a rimanere al lavoro più a lungo, in maniera quindi molto forte, molto netta, molto rigida, anziché di investire sulle misure che consentono alle persone di rimanere con piacere all'interno del sistema produttivo, o comunque di avere un ruolo sociale e di quindi considerare sempre più possibile, desiderabile, conveniente rimanere attivi più a lungo, formando e mettendo in campo le condizioni perché le persone possano scegliere di vivere bene tutte le fasi della vita e di rimanere attivi il più a lungo possibile. Ecco, quindi sfruttare non tutte le opportunità, ma in qualche certo. modo incentivati a farlo positivamente, mettendosi in gioco, mettendosi a disposizione, ma avendo gli strumenti, le condizioni e gli spazi per poterlo fare, attraverso quindi una politica che torni a pensarsi anche come politica di investimento sociale e di strumenti che promuovono la possibilità alle persone di costruirsi un proprio futuro in maniera solida. E quindi un futuro anche per la società. Grazie professor Rosina di questa sua appassionata perorazione a favore del nostro futuro, del futuro di tutti. Questo libro illustra i problemi, già capire i problemi, già conoscerli, speriamo che possa essere un passo in avanti nella direzione giusta per cercare di affrontare e di risolverli. Io ringrazio il professor Alessandro Rosina, docente dell'Università Cattolica, di essere stato con noi per presentare il suo libro L'Italia che non cresce, gli abiti di un paese immobile, edito dalla Terza, sono 182 pagine per 12 euro. Ringrazio anche Fabio Cantadori in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buonasera.